sono uno strano tipo e faccio quello che mi piace. E per questo penso solo che la vita è vita solo accanto a te, e tu la pensi forse come me. Se è vero o no un giorno lo saprò, perché io sono uno strano tipo. Mi piace stare con gli amici, ma se penso che non ci sei tu, sono triste perché sento che la mia vita non esiste più. Ed allora lascia andare. Sono uno strano tipo e faccio quello che mi piace. E per questo penso solo che la vita è vita solo accanto a te, e tu la pensi forse come me. Se è vero o no un giorno lo saprò, perché io sono uno strano tipo. Mi piace stare con gli amici, ma se penso che non ci sei tu, sono triste perché sento che la mia vita non esiste più. Ed allora lascia andare.